raccontare la stessa cosa, a volte cambiamo radicalmente punto di vista e quella stessa cosa di cui si parla perde tutta o quasi tutta la sua stessità, nel raccontare come nel descrivere, consapevole o meno che sia, c'è sempre del calcolo. Non so se qualcuno ricorda un caso di alcuni anni fa. Pochi giorni prima di Natale i giornali annunciarono che un noto avvocato era stato ucciso nella sua abitazione. Nuovo atroce delitto a Milano. La prima ricostruzione dei fatti aveva accertato che ignoti, a plurale ignoti, ignoti avevano sfondato la porta d'ingresso dell'appartamento, che avevano aggredito il povero avvocato picchiandolo a sangue sulla testa con un oggetto contundente e che l'avevano infine trascinato in un'altra stanza dove l'avevano lasciato morire. La polizia scientifica, grazie all'acume del dottor Watson di turno, aveva anche potuto appurare che la vittima, prima di venire sopraffatta, aveva lottato disperatamente con i banditi. La porta di casa, un bastone insanguinato, le ferite alla testa, la scia di sangue da una stanza all'altra, probabilmente qualche suppellettile fuori posto, erano gli elementi sui quali quel particolare ramo della scienza storica che è la detection poteva imbastire la trama della vicenda. Elementi che, rimanendo tali, avrebbero potuto dar vita anche ad una trama diversa, visto che i giornali del giorno dopo dovettero annunciare che il noto avvocato era stato ucciso da un attacco di cirrosi epatica. Crisi, caduta, ferita al capo da cui la copiosità del sangue, tentativi di rialzarsi e di trascinarsi presumibilmente verso un telefono onde chiedere aiuto, sono gli stadi di tutt'altro evento basato tuttavia sui medesimi elementi, cadavere finale compreso. In quanto alla porta era difettosa da tempo e l'enfasi drammaturgica del cronista aveva tramutato una maniglia che avrebbe potuto sembrare manomessa in una porta sfondata. Un secondo caso utile alle mie tesi è quello di una ragazza che per vari motivi di lavoro mi è stata presentata qualche mese fa. Nelle chiacchiere amichevoli di cui mi ha onorato, questa fanciulla una prima volta ci ha infilato il fatto che essa abitava con un amico, mentre una seconda volta, e per l'esattezza la settimana dopo, ha ridescritto le proprie condizioni dicendo che essa abitava con il fidanzato. Anche qui il problema evolutivo è bifido. Sì, perché nel caso dell'avvocato il morto rimane morto, ma cambiando la causa della morte cambia l'oggetto del racconto. E non solo. Cambia anche qualcosa per il destinatario del racconto, cioè per me che lo leggo. Dall'oggi al domani non sono più oggetto di speculazione ideologica, o meglio, cambio di campo ideologico, da quello dell'ordine sociale a quello medico, dal campo ideologico che necessita dei delitti per invocare leggi più severe a quello che necessita dei morti di cirrosi epatica per invocare terapie e sistemi assistenziali più efficaci. Il delitto diventa esito naturale e colui cui lo si racconta perde la sua proprietà di pezzo in una data scacchiera ideologica. La persona con la quale convive quella ragazza, nel passaggio da amico a fidanzato, rimane sempre la stessa, ma evolve nella considerazione della ragazza, ed evolve positivamente per la qualità del vincolo designato dal secondo termine, fidanzato, rispetto a quanto designato dal primo, amico. Tuttavia, parallelamente, evolve anche qualcos'altro. nella considerazione della ragazza, è qualcos'altro che altri non è che il sottoscritto, destinatario del racconto. Ed evolvo negativamente, perché nel giro di una settimana, da uno cui nascondere i propri vincoli sentimentali, divento uno cui li si può esplicitare serenamente. Non so se, come nel caso delle cronache concernenti il povero avvocato, io abbia cambiato di campo ideologico, ma so di sicuro che nel campo ideologico in cui ero stato piazzato, le mie azioni hanno subito un netto ribasso. Smetto a 135.